Il punto di Stefano Folli. La morte del ragazzo genovese in Siria a fianco dei ribelli ha sollevato il velo sulla presenza di un certo numero di europei nel paese di Assad, fra cui una cinquantina di italiani o almeno provenienti dall'Italia. Non è una novità assoluta. Alcuni bravi giornalisti ne avevano già parlato mesi fa. Tuttavia la domanda è: si conoscono i loro nomi? I nostri servizi hanno una mappa dei loro spostamenti, della loro identità e soprattutto delle loro ragioni? Il rischio è che all'ombra della sollevazione siriana e forgiata dalla sanguinosa repressione scatenata da Assad si sia formata una rete islamica potenzialmente terrorista, con solide radici e collegamenti anche da noi. Non c'era bisogno dell'uccisione del giovane Giuliano per affrontare il problema, che è grave, attiene alla nostra sicurezza e ha implicazioni politiche un po' più serie delle diatribe sulla legge elettorale o su quali saranno le regole del prossimo congresso del Partito Democratico.